Pronto? Pronto, Ciao Romina, Romina. ciao, siamo Giorgia e Francesca. Ciao, Ciao, piacere. piacere, benvenuta soprattutto. Grazie. Come stai? Molto bene, grazie. Sono in pieno lavoro perché sto preparando il secondo singolo, quindi... Ottimo, puoi già dirci qualcosa quando uscirà? Sì, guarda, allora, la data precisa ancora non la sappiamo, ma manca veramente poco, cioè si tratta veramente di 2 o 3 settimane, nel senso da decidere se tra 2 settimane o tra 3 settimane, tutto qua. Ok. La canzone è molto particolare e parla della dipendenza affettiva. Ah, ok. Ma Ottimo. infatti, guarda, a proposito, volevo chiederti anche del tuo primo singolo, no? Le 5 fasi del dolore. Anche lì si parla di uno stato di abbandono, quindi dici un po' cosa c'è dietro il brano. Sì, esatto, il brano praticamente parla del fatto di come ci si sente quando bisogna rassegnarsi, quindi io ho pensato all'abbandono perché era finita questa convivenza e sinceramente è questo il punto, che mi sono capitate queste cinque fasi del dolore in mano, era l'elaborazione che aveva fatto la Elisabeth Kübler-Ross, che è questa psichiatra che è Sì. diventata nel tempo molto famosa. E ho provato a descrivere queste 5 fasi, ma da come quello che ha subito tutto, quindi non, assolutamente non come una esperta o altro. Quindi sono, non so, il rifiuto, la rabbia, poi c'è il patteggiamento, vediamoci ancora una volta, vediamoci un'ultima Sì. volta, così. Poi c'era la tristezza e la rassegnazione. Tendo a scrivere in maniera grottesca le mie cose perché mi piace molto usare l'ironia pure in momenti difficili e da qualche anno sono riuscita a inserire questa caratteristica, diciamo, pure nelle canzoni. E E è stata un po' sì, È stata un po' una raccontaci. sfida, Ok. nel senso che non è stato, cioè non, lì per lì non era facile. Quando facevo sentire la canzone dicevano sì, ma nel senso no, perché poi usare il grottesco nelle canzoni significa essere cioè, ironici, Rischioso. molto ironici, però tutto sotto c'è sempre un velo di amarezza, no? Di Certo. tristezza. E quindi all'inizio era un po' difficile perché poi se ti muovi nel mondo pop è un po' una sfida. Però sicuramente è una sfida che vale la pena, perché nel senso comunque volevo essere molto fedele pure al mio modo di comunicare, proprio perché poi non è che uno ha tutti i giorni, tutti gli anni l'opportunità di fare un disco è un dono e dal momento che ho l'opportunità di farlo ho cercato di essere molto fedele a quello che è il mio carattere, ma poi anche di cercare insomma di non far, ecco, il desiderio più grande che avevo era non far sentire solo nessuno. Anche nel momento più delirante, no? E come dire, Certo. oddio, è successo anche a me questa Guarda, cosa. il fatto che tu dica che l'album sia un dono è veramente una cosa bellissima. Io volevo chiederti anche una cosa riguardo dell'iniziativa che è stata connessa al tuo brano. Ho visto un po' di foto in giro per Milano, per Roma, Firenze. Vedevo di questa sposa in giro. Dici un po' di cosa si tratta? Allora, praticamente è questo, io ho fatto in modo, non potendo usare i soliti canali mediatici, ho pensato di sfruttare la fantasia, perché poi viviamo in un'epoca dove non ci sono regole da quel punto di vista, no? Adesso abbiamo i social, abbiamo tantissime armi, se così si può dire, a nostra disposizione, e mi è venuta appunto in mente l'idea di rappresentare l'abbandono. Siccome già sapevo che stavo parlando di abbandono e che tutte le canzoni che poi sarebbero seguite avevano comunque a che fare con la sfera emotiva di ognuno di noi, ho detto come faccio a rappresentare l'abbandono? O mi travesto da gattino in tangenziale o metto lì una figura molto tenera e ho pensato a una sposa abbandonata. E l'idea di rappresentarlo è stato primo come esperimento, perché io avevo nel cuore questa voglia di fare questo centro d'ascolto per cuori infranti, no? Se ci Sì, pensi, ci sono abbiamo letto, ma sentita. infatti raccontaci qual è stata l'esperienza, insomma, la persona che hai ascoltato che ti ha colpito di più, perché avrai sentito delle storie pazzesche. Guarda, ci sono tantissime in realtà esperienze, non ce n'è una sola che mi ha colpito e questo è un bene perché vuol dire che veramente noi sembriamo tutti uguali, però in realtà ognuno di noi ha il suo buio ed è sacro, no? Mm-hmm. Cioè, il suo punto di ombra, come si suol dire. E ho avuto la fortuna, proprio con il mio modo grottesco di scrivere, di non essere mai buonista, no? Di non sembrare mai buonista. Quindi già sono già un paio di anni che mi arrivano delle lettere struggenti a proposito di questo, perché sanno che sono la prima che si prende in giro da sola, che parla di alcune cose. Sei molto autoironica. Esatto, e sanno che non c'è mai un pensiero giudicante da parte mia. Il fatto che le persone abbiano capito questa cosa, io pur non essendo famosa, no, per me è una grandissima soddisfazione. E quindi quando si rapportano con me, il rapporto è sempre viscerale e sincero. Aprendo questo centro d'ascolto sono arrivate persone di tutti i tipi, ma una storia molto triste, per esempio, è stata una ragazza che ha un po' la sindrome d'abbandono e quindi fa fatica a lasciarsi andare, perché ha avuto qualcuno che l'ha abbandonata, esatto, e quindi fa fatica a lasciarsi andare anche con la persona che gli piace di più. Anzi, più ti piace una persona e più a quel punto proprio cerchi di allontanarti, perché non vuoi più rivivere quell'esperienza, quindi piuttosto stai sola. Questa era e purtroppo, mentre si doveva decidere, era molto corteggiata da questa persona che gli piaceva da morire, questa persona è venuta a mancare. E questa è venuta da me dicendo: guarda, è il fatto di aver perso tempo che non mi dà pace, capito? Sì. Poi magari sarebbe dopo un caffè, nel senso, no, magari dopo due giorni una relazione può anche finire, però il fatto che io non mi sia concessa e non abbia concesso a nessuno dei due il tempo, cioè quella cosa lì mi ha fatto venire proprio i lucciconi. Poi le persone... Esatto, le persone che si... Ho fatto sto preparando questo disco, che è una mappa psicoemotiva di tutti gli schiaffi, diciamo, della vita, presi, ma belli e brutti, belli, perché detta così sembra Madonna, scosse, figlia, diciamo, mia, che sta successo. Dei momenti importanti, dai, mettiamola così. Esatto, bravissima. E in realtà poi c'è tantissima ironia, perché ripeto, quando ci arrabbiamo lì per lì sembra tutto nero, no? Il giorno dopo ci pensiamo e diciamo: Madonna, ma ieri che cosa ho detto? Capito? Quindi io scherzo molto. È vero, assolutamente. Ma così. Romina, guarda, noi volevamo sapere qualcosa riguardo del tuo passato. Noi sappiamo che canti davvero da tanto. Qual è stato l'evento che più ti ha spinto a fare ciò che fai, e qual è il ricordo più bello che ricolleghi alle prime note della musica, diciamo, della tua vita? Allora, il momento dove proprio ho realizzato che io volevo provare a fare la cantante, volevo essere una cantante più che fare la cantante, quando mi sono ritrovata in un momento di difficoltà familiare, insomma, avevo 12 anni, ho cominciato con questo amico di famiglia a cantare nelle realtà romane, ma dai matrimoni, eccetera. E mi sentivo un eroe, perché tu immagina una ragazza, è come, cioè, io non volevo andare in piscina, non volevo, come volevi cantare, solo cantare. Io volevo cantare e dicevo: ma se questo è il mondo del lavoro, io voglio lavorare tutta la vita. Cioè, che detto adesso così fa ridere, però sì, tu immagina una ragazzina di 12 anni. E io cantavo tipo Nicca Costa una volta, non so se ve la ricordate, no? Cioè, quella ragazzina che cantava, però cantava questi temi molto drammatici, sì, cioè non canzoni da bambina. Io cantavo, io adoravo Mina, cantavo queste cose. Cose già importanti, insomma, per l'età. Sì, ecco, lì ho capito che innanzitutto la predisposizione di un figlio è importantissima, nel senso che io non ho io in famiglia non ho nessun musicista. Non ho, che è curioso, perché ultimamente invece sono tutti, no, figli, cugini, fratelli di qualcuno che già esatto, quindi per dire, vedi che a volte una passione nasce così dal nulla, anche se non hai magari lì per lì le competenze, non sai a chi rivolgerti anche per chiedere un consiglio. Fondamentalmente l'importante è che ci sia voglia di fare, come in ogni cosa. Io immagino anche voi ragazze che per arrivare a comunicare così, no, alle persone, abbiate avuto un vostro percorso molto profondo, fatto di, non so, di mettersi alla prova, di tantissime situazioni, no? Sì, è stato così. Ecco, la cosa importante è non precludersi mai nulla, cioè non darsi mai limiti, anche se sembra la montagna più difficile da scalare, no? Perché adesso dire voglio essere una cantante fa anche un po' ridere, perché la gente ti risponde: sì, ma di lavoro, dai, dimmi davvero, sì, che sì, cosa succede, così, sì, purtroppo, è vero. Sempre così, è sempre così. No, guarda, io direi che hai lanciato un messaggio davvero bello. Sicuramente chi ci sta ascoltando da casa cioè, ha piacere nel sentire dopo tanti schiaffi, come dici tu, no? Rimanere comunque positivi. Quindi la positività che non viene tralasciata. Questo è fondamentale. No. Anzi, ci salva, no? Perché dopo una delusione d'amore, un lavoro che finisce male, che cioè, dove ti aspetti qualcosa di più e non ti viene mai magari riconosciuto quello che vorresti, in realtà ogni tanto ridere un po' anche necessario. Di cose, sì, ci salva molto. Almeno io la vivo un po', la vivo come un'ancora di salvataggio in questo senso. Io vi volevo tantissimo ringraziare, ragazze, perché mi aiutate mi permettete di spargere la voce e non è una cosa scontata. Ma guarda, figurati, siamo noi che ringraziamo te. Questo è un bellissimo messaggio davvero per tutti, artisti in primis, ma anche non, cioè i tuoi fan, il pubblico che magari ancora non ti conosce, e per noi ovviamente. Quindi grazie. Grazie davvero. Noi aspettiamo il tuo secondo singolo e soprattutto nel 2019 anche il tuo album nuovo, quindi siamo in attesa. Vi ringrazio tantissimo, un bacio grande e spero a presto. Grazie anche a te, ciao.